Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Benvenuti a voi e bentrovati. Oggi la puntata di Essere e Benessere è davvero speciale. Io vi invito a riflettere, così, a pensare se avete mai provato a sentire che cosa vi comunica il vostro corpo. Avete mai pensato, ad esempio, che di fronte ad un problema di salute il vostro corpo, oltre a produrre il sintomo che a noi crea fastidio, potrebbe anche contribuire a costruire la soluzione? E poi avete mai creduto che anche voi soprattutto siete la risorsa principale in un processo di guarigione, che la vostra salute non può essere semplicemente delegata ad uno specialista, cosa che facciamo e che vorremmo, ma deve partire proprio da noi? Insomma, il nostro non è un corpo che assomiglia ad una macchina e poi arriva il meccanico e l'aggiusta. Qualche cosa deve muoversi dentro di noi, avere la voglia di prenderci cura. Bene, oggi con la mia ospite cercherò di trasformare molte di queste affermazioni in dati concreti ai quali voi potete ispirarvi, ma per aiutarvi a capire lo spirito della puntata e soprattutto ciò che anima la professionalità e il modus operandi della mia ospite, voglio farvi ascoltare un breve estratto dal suo libro Ascolta e guarisci il tuo corpo. Ascoltate anche voi. La malattia è una sfida che può diventare cammino di consapevolezza e che passa attraverso l'accettazione di ciò che non possiamo o che possiamo cambiare dentro e fuori di noi. Un tempo pensavo di guarire con le mie azioni e le mie medicine e cercavo la malattia per etichettarla. Ora ho coscienza che l'uomo e la malattia sono di una meravigliosa complessità e quindi la terapia non può essere riduttiva e semplicistica, ma deve invece aiutare la persona che presenta i sintomi patologici a trovare in sé la forza di guarigione, in quanto ogni guarigione è sempre un'autoguarigione. Noi terapisti possiamo soltanto essere dei facilitatori di questo processo. Il mio metodo non è quindi una tecnica, una serie di esercizi, ma fondamentalmente la proposta di un percorso, da persona a persona, dal terapista al paziente, così come è stata un percorso la mia vita. Gradino dopo gradino, la visione del perché una persona soffre si è ampliata e articolata, partendo dalle cause meccaniche e fisiche, per poi comprendere quelle psichiche, emotive e infine, ma non ultime, quelle spirituali. È così che comincia Ascolta e guarisci il tuo corpo, il libro appena pubblicato da Mondadori, la cui autrice è la dottoressa Laura Bertelè, che abbiamo il privilegio di avere in linea con noi e che blinderemo con noi sino a chiusura della trasmissione. Dottoressa Bertelè, buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Dottoressa, lei è ortopedico, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria e psicologa, e la sua storia professionale è davvero affascinante, si incrocia con la sua storia personale fino ad arrivare a portarla a sviluppare un metodo che adesso in Italia tutti chiamano metodo Bertelè. Io vorrei che lei ci aiutasse a capire un po', come fa nelle pagine del suo libro, quali sono state le tappe cruciali della sua crescita professionale che l'hanno resa la specialista capace di, e questo mi piace da morire, proprio di sentire il corpo dei suoi pazienti. Quali persone, quali incontri, quali cose hanno fatto la differenza nella sua vita di medico e di professionista? E come ha già detto lei e come dico nel libro, la vita professionale è personale si intersecano e penso che gli incontri, sia dal punto di vista personale sia quelli professionali, mi hanno arricchito e mi hanno permesso di essere quella che sono in questo momento. Dal punto di vista professionale non posso dimenticare le persone che mi hanno arricchito per le loro conoscenze, per la loro modalità di essere medici, come il dottor Zuccoli, che è stato il mio primario, i coniugi Fenerici, due grandissimi neurologi di Milano. Ecco, poi ci sono state le persone che hanno veramente sconvolto la mia vita, che sono state innanzitutto Françoise Mézière, che è stata questa grandissima ortopedica francese con cui ho avuto anche il privilegio di lavorare e di insegnare. Ecco. E poi le persone, tutte le persone, ogni paziente mi ha portato in modo un pezzettino in più del puzzle che si è mano a mano costruito. Non posso dimenticare forse le due persone principali come pazienti, che sono due ragazzi che hanno veramente colpito la mia vita, e sono due ragazzi con tetraparesi spastica, Andrea e Matteo, ecco, di cui parlo nel libro. Del libro, ecco. 800 24 00 24, oggi vi invito proprio a lasciarvi guidare, ad approfittare della dottoressa Bertelet per farvi insegnare, farci insegnare, perché io sono la prima a doverlo imparare, ad ascoltare proprio i segnali che il nostro corpo ci manda. Nella quarta di copertina c'è scritto: per curare e guarire è fondamentale saper andare al di là della fisicità, comprendere che l'anima comunica attraverso il corpo e che ogni guarigione è sempre innanzitutto una guarigione dell'anima. Dottoressa, lei parla di sedute che trasformano il corpo con cui il paziente si presenta nel momento in cui varca l'ambulatorio dello specialista al quale si rivolge. Allora io vorrei far ascoltare di nuovo un breve estratto dal suo libro. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori 800 24 00 24 se volete intervenire o scriverci al 349 238 6666. Siamo come scultori e, come diceva Michelangelo, dobbiamo togliere il sovrappiù perché dalla materia informe si liberi la forma armoniosa. La forma perfetta o morfologica ideale per una persona è quella in cui la parte destra e sinistra sono simmetriche e speculari. Osservando il paziente in piedi, i malleoli devono essere sullo stesso livello, le ginocchia sul giusto asse, cioè non ruotate all'interno come avviene in quasi tutte le persone, né all'esterno. Le pieghe sotto i glutei, quelle inguinali, le scapole, le spalle, le mammelle, si devono trovare alla stessa altezza. I profili del torace appaiono rettilinei, il capo al centro delle spalle senza rotazioni né inclinazioni, le braccia lungo il corpo, i gomiti e le dita estesi. Di profilo, la nuca deve essere sullo stesso piano di scapole, osso sacro e tallone. Il profilo anteriore del tronco o linea toraco-addominale deve essere rettilineo. È la forma che risponde ai parametri della sezione aurea, quella dei curoi, immortalati nelle statue della Grecia classica. Una forma che in realtà non esiste. In natura, il nostro corpo si deforma negli anni per gli sforzi, le posture scorrette e soprattutto gli stress. Mézier ci insegnava a togliere queste contratture, a suggerire al corpo la posizione corretta, a risvegliare in esso la memoria dell'armonia. Allentava freni e tensioni con un amore e una cura infiniti, accarezzava l'anima. Non potevo non vedere la differenza delle forme del corpo da prima a dopo la seduta. Il paziente si alzava trasformato, fisicamente e psicologicamente. Era evidente che i due ambiti fossero strettamente interdipendenti. Dottoressa Bertelet, insomma, il medico, lo specialista diventa un po' uno scultore del suo paziente. E da questo breve estratto abbiamo capito anche che cosa lo specialista debba andare a cercare. E poi è un'armonia, è un far parlare il corpo. Lei come lavora, dottoressa, al primo incontro? Beh, come primo incontro cerco di valutare la persona e di cogliere i nodi che la legano fisicamente, e poi piano piano, col cammino che si percorre insieme, di capire quali sono i nodi emozionali che effettivamente si sono tradotti in quei nodi muscolari. Penso che sia molto importante per ogni terapista che applica questo metodo, e in Italia ce ne sono moltissimi ormai, sì, che hanno fatto la mia scuola di formazione, avere presente questo concetto che il positivo, l'ideale, la forma ideale è già presente nel corpo. Noi dobbiamo solo liberare, non dobbiamo imporre un'altra forma che noi pensiamo che sia giusta, ma solamente togliere e sciogliere dei nodi. Mézier ci diceva sempre una frase straordinaria, che è quella di Michelangelo, appunto, che era quella: io libero la statua che c'è già nel pezzo di marmo. Ecco, noi dobbiamo avere sempre presente questa idea. Dottoressa, oggi noi la faremo parlare con i nostri ascoltatori che stanno già chiamando all'800 24 00 24 e vorrei che gli ascoltatori parlassero di come riescono, o al contrario non riescono, ad ascoltare il proprio corpo, e al tempo stesso lei resta a loro disposizione per consigli sui diversi aspetti che lei tratta nel suo libro, quindi mal di schiena, dolori articolari e molto di più. Uno dei vostri sms, come sempre, oppure delle vostre telefonate potrà ricevere a casa una copia in collaborazione con IBS di Ascolta e guarisci il tuo corpo, sempre edito dalla Mondadori. Lo ricordo, potete scriverci quale emozione pensate di dover liberare, quale blocco dovreste liberare o avete liberato per stare meglio. Intanto, dottoressa, prendo spunto dalla sarta che lei racconta nel suo libro, vorrei che lei aiutasse i nostri ascoltatori a capire a quali aspetti, a quali segnali dovrebbero fare attenzione per imparare ad ascoltare il loro corpo. Il corpo ha un linguaggio sempre molto chiaro, è la mente che confonde tutto, nel senso che dobbiamo semplicemente metterci in ascolto, quindi fare attenzione alle tensioni muscolari, ai dolori, a quando stiamo bene, cioè le situazioni che ci fanno star bene, quelle che ci fanno star male, le persone con cui stiamo bene e le altre, quelle con cui stiamo male. È il corpo che non mente mai e quindi è molto importante ascoltare appunto anche le minime tensioni. L'esempio della sarta è particolare appunto ed è per quello che l'ho riportato, perché è un po' esemplificativo, paradigmatico di tanti processi patologici che si fanno, cioè di tante patologie che si formano negli anni. Le sarte usano molto le dita, soprattutto i pollici, per tagliare, sono le sarte che tagliano, sì, e che cuciono. Quindi questo sottopone il pollice a uno stress continuo. Questo stress continuo porta a una infiammazione dell'articolazione, soprattutto quella della base del pollice, che si chiama trapezio metacarpale, che si infiamma, e questo dolore impedirebbe il lavoro. Sì. La persona non può smettere, quindi continua a lavorare cercando di compensare questo dolore, di sfuggire a questo dolore. Allora cambierà la posizione del gomito senza rendersene conto, il corpo che compensa. Piano piano risale alla spalla, poi al collo e negli anni, da una patologia del pollice molto frequentemente si risulta una artrosi dell'anca, cioè una coxartrosi, magari dopo 20 anni, 30 anni di questo dolore che sfugge, che noi chiamiamo appunto un riflesso antalgico a posteriore, cioè un dolore che si è nascosto. Dottoressa Bertelè, allora, invitando i nostri ascoltatori ad ascoltare il loro corpo, quindi da quanto lei ci racconta di questa sarta vediamo che il problema è nell'utilizzo di questo dito che poi corre, no? Corre e diventa e trasforma il corpo. Molti di noi lamentano già via SMS dei disturbi, dei blocchi, delle tensioni che avvertono molti di loro a livello cervicale, altri mi dicono mi sento le spalle rigide, faccio fatica a camminare oppure non corro come vorrei. Allora lanciamo qualche stimolo ai nostri amici da casa in modo che possano individuare quelli che sono i segnali importanti, quelli a cui prestare attenzione per dividere anche magari quello che è la tensione dal dolore, che sono due facce della stessa medaglia ma che noi avvertiamo come distinti. In realtà, secondo me, bisogna entrare in un'ottica in cui aver presente che il corpo, se non lo ascoltiamo, aumenta l'intensità di volume del suo messaggio, quindi del sintomo. Urla, insomma, esatto, come facciamo noi, no? Che può essere semplicemente un fastidio, ma una mano si trasforma in un grido, in un urlo, che è la patologia grave conclamata che ci blocca. Sì. Quello che vorrei consigliare agli ascoltatori, che è quello che dico sempre anche ai miei pazienti, è: prova a descrivere con le tue parole il tipo di dolore che hai, come lo senti, non la diagnosi che ti è stata fatta, l'etichetta che i medici hanno messo, ma dimmi con le tue parole, quindi di a te stesso con le tue parole cosa senti. Ad esempio, lei stessa mi ha già detto un blocco, oppure sento un peso sulle spalle, ecco, è quello, è l'anima che parla, cioè è il linguaggio emozionale, un blocco, che cosa blocca, che cosa ti blocca nella tua vita, nel tuo movimento, che si traduce in un blocco fisico, che paura ti sta bloccando ad esempio, oppure che peso hai sulle spalle, chi ti sta pesando sulle spalle o quale situazione ti sei assunto sulle spalle che magari non è tua o sei stanca di avere. Certo che, dottoressa Bertelè, in questo modo noi, come ipotetici, li metto tra virgolette, pazienti, siamo chiamati a un ruolo molto diverso, perché per noi è molto più semplice rivolgerci ad un medico che ci dica sì, ha la cervicale, esatto, perché ecco. Invece un medico che, e questo mi piace, un medico che ci aiuta a fare un percorso, cioè ci chiede ma che cos'è che ti sta pesando sulle spalle, che cos'è che ti, no, ti fa, sì, esatto, ti rende doloroso alzarti, andare. Ecco, lì ci vuole proprio un'attenzione, una cura di sé che io cerco di imparare giorno dopo giorno con l'aiuto dei miei ascoltatori e degli ospiti che intervengono in trasmissione, perché vogliamo non diventare medici di noi stessi, ma cercare di prenderci cura di noi stessi. Abbiamo Grazia da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Io ho chiamato, ieri sera ho avuto una discussione con mia figlia a proposito di questo. Lei ha 16 anni. Mm? E si ripetono frequentemente, insomma adesso la terza o la quarta volta, questi episodi di alla mattina un po' di nausea, poi mi viene il mal di stomaco, poi ho il mal di pancia, e l'altra sera parlavo, la tranquillizzavo, era un po' più agitata del solito, io soltanto tranquillizzandola, parlandone, poi gli ho dato qualche goccia omeopatica, la ragazza ha cambiato. E ieri sera ho discusso ancora con lei dicendo sì, ma ti stai ascoltando? Cosa sta succedendo? Verificheremo anche eventualmente verificheremo clinicamente se non ci sono altri problemi, certo, perché è sempre seguita logicamente. Però io in lei, siccome io ho problemi di cervicale, ho tutti questi problemi e mi ascolto molto, e tutto quello che avete detto prima è vero, sì, per cui io risolvo la maggior parte dei miei problemi con altre tecniche, mi rilasso, certo, prendo cura di me, insomma. E questa ragazza, io trovo che è una ragazza molto sensibile, eccetera, e corrisponde perfettamente a quello che diceva la dottoressa Bertelè. Però dico, continuo su questa strada o c'è qualche altra tecnica? Solo 16 anni. Grazie, dottoressa Bertelè. Sì. Il suo metodo, parleremo di mal di schiena, di dolori articolari, di tutte queste tensioni che in qualche modo ci bloccano, ma di cui noi vorremmo superare e andare oltre per capire che cosa c'è dietro. Questo può aiutare. Ma il suo approccio potrebbe essere utile anche in casi come la ragazzina che ci descrive Grazia, quindi dei disturbi che non hanno a che fare espressamente con i dolori articolari, le ossa, le articolazioni, i muscoli, ma magari con dei segnali, il mal di pancia, il mal di testa, la nausea, delle cose che, no, con cui solitamente il nostro corpo ci racconta, ma che noi preferiamo far tacere, magari prendendo, no, il farmaco antiacido piuttosto che la pillolina per il mal di testa. Dottoressa. Dunque, ecco, io dico innanzitutto bisogna ascoltare se stessi e nei figli, ascoltare e essere disponibili a capire che cosa li turba. Perché i bambini, tanto più sono piccoli, parlano solo attraverso il corpo, sì, e quindi è fondamentale ascoltare i disturbi dei figli. Naturalmente, se il disturbo diventa continuativo, importante, è fondamentale fare anche degli accertamenti, ad esempio appunto chiedersi se ci sono delle intolleranze alimentari, sì, che ce ne sono sempre di più, soprattutto quella al glutine, ad esempio, sta diventando sempre più frequente, quindi sì, ecco, chiederci se c'è qualcosa a cui sono intolleranti. Ma intolleranza cosa vuol dire? È comunque una insofferenza, sì, ecco, ed è un segno in ogni caso di disagio. Penso che i nostri figli principalmente ci chiedano di cogliere quello e di chiederci insieme qual è il disagio che li turba in un momento difficile della vita. Tra l'altro l'adolescenza io trovo che è veramente un momento estremamente difficile in un mondo come questo. Sì, un po' faticosa, bisogna essere attrezzati, e poi anche oltre l'adolescenza, perché esatto, bisogna attrezzarci, e tante volte la forza la troviamo proprio dentro di noi. È che sentire le vocine del nostro corpo è molto difficile, perché ci mette in moto tutta una serie di pensieri, e poi bisogna fare qualcosa, perché quando uno poi sente, e ascolta, capisce, e lì diventa dura, ma troveremo insieme una soluzione. Il passo adesso è tempo di andare a sentire i mercati, il meteo. Vi invito a chiamarci 800 24 00 24. Intanto provate a fare cosa aveva detto la dottoressa Bertelè, a descrivere la vostra tensione, il vostro dolore, il vostro ostacolo, no? Quello che avvertite, crei una barriera al vostro benessere. Noi siamo qui per voi, a tra poco. Essere e benessere. Ascolta e guarisci il tuo corpo. Questo è il titolo del libro della dottoressa Laura Bertelè, di cui parliamo oggi e che abbiamo oggi in linea, ma vorrei dare anche un po' il titolo della puntata di oggi, la riflessione da portare avanti. Questo è un libro davvero illuminante per tutte le persone che sentono il bisogno di imparare ad ascoltarsi, perché soltanto capendo i messaggi che il nostro corpo ci manda è possibile ritrovare noi stessi e quindi il nostro benessere, nel caso una guarigione, perché in fondo ogni guarigione è un'autoguarigione. Io vi ricordo che in collaborazione con IBS potete ricevere a casa una copia, uno di voi potrà ricevere una copia del libro di Laura Bertelè. Mandateci un SMS o chiamateci per raccontarci come riuscite o al contrario non riuscite ad ascoltare il vostro corpo. Dottoressa Bertelè, intanto ne ho selezionati due, uno di Elisa e uno di Alci, che mi sono piaciuti in modo particolare. Elisa ci scrive: ascoltarsi, prendere cura di sé per un lento progressivo cammino verso uno spiraglio che poco a poco diventerà orizzonte di luce infinita. È molto bertelettiana, devo dire, sì. Mentre Alci ci scrive: ho imparato a coltivare il terreno delle mie sensazioni, presto attenzione ai miei blocchi, non per giudicarli, ma per ascoltare quello che dicono a me di me. Ecco, io penso che Alci ci abbia dato, no, ci aiuti con il suo messaggio, perché noi tante volte abbiamo paura di ascoltarci perché poi parte il giudizio, il nostro giudizio, sì, che talvolta è troppo severo e quello è un ulteriore blocco. Invece Alci ci racconta questa, no, questa sua capacità di accogliersi e di non giudicarsi, ma solamente di conoscere, che è quello che ci serve, dottoressa. Assolutamente. Anche perché nella mia pratica quotidiana vedo che la grandissima parte delle patologie nasce proprio da una rigidità verso se stessi, da un'interiorizzazione evidentemente di giudizi che ci sono stati dati, fatti o comunque che abbiamo assorbito dall'ambiente familiare, dall'ambiente circostante, e questo non amore verso di noi si traduce poi appunto nella patologia. Volevo solo aggiungere una cosa a proposito di quello che abbiamo detto prima, sì, cioè della ragazzina di cui parlavamo prima. Lavorando sulla schiena, noi abbiamo una grandissima azione anche sul sistema neurovegetativo, quindi abbiamo dei miglioramenti a livello un po' di tutti i visceri, perché il sistema neurovegetativo di fatto è il sistema automatico che innerva e regola la funzione di tutti i nostri visceri. E quindi già col metodo Mézières-Bertelè noi abbiamo dei risultati molto importanti su tantissime funzioni, tra l'altro appunto digestiva, anche in alcuni casi sterilità funzionali, cioè un po' tutto l'aspetto neurovegetativo, perché è la traduzione fisica del nostro vissuto emozionale. E inoltre io integro spesso il nostro lavoro con altri metodi che possono aiutare ulteriormente in questa divisione, in questa direzione, ecco, quindi riflessologia plantare, osteopatia, che aiutano ulteriormente la persona. Quindi sbloccando un po', rimettendo a posto la postura, l'equilibrio, come faceva, esatto, riferimento, sì, sì, noi abbiamo dei benefici in altre parti del nostro corpo, che giustamente se lei mi dice la pancia e la schiena, uno dice: ma io mal di schiena e non digerisco, ma come mai? La cattiva digestione può dipendere dalla schiena, forse, e sì, e viceversa. Certo, certo, sì, sì, sì. Allora, noi andiamo ad Enrico, che ci chiama da Roma. Buongiorno Enrico. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, io volevo riallacciarmi proprio a questo discorso della postura, raccontando la mia esperienza, che sono un musicista, quindi ho anche un approccio molto importante con la postura, con quello che insomma è il fisico nello spazio. Sì. E ho cambiato strumento, nel senso che prima suonavo la tromba, che è uno strumento verticale che si tiene in questa maniera dritta, passando ad un flicorno che invece si abbraccia. Sì. Il cambio di questa postura mi ha portato ad un problema che io pensavo fosse un'ernia, sì, che invece diciamo che è stato poi fatto anche degli accertamenti, invece non è stato niente, sono un fastidio che avevo proprio perché approcciavo uno strumento in maniera sbagliata, nel senso che io lo suonavo come con metà corpo, solo con la parte sinistra, perché avevo portato questa piccola rotazione, diciamo, nello strumento, perché abbracciando uno strumento piuttosto che tenere questo peso in avanti, sì, e avevo questi fastidi, invece capendo che, approcciando il mio fisico diversamente, capendo che lo stavo suonando con metà corpo, ho risolto il problema, perché adesso ho un approccio totale e non ho più questo fastidio. Insomma, diciamo, era grazie. No, ma grazie Enrico, è molto interessante il contributo di Enrico. Molto interessante, perché tra l'altro i musicisti effettivamente hanno un uso del corpo a cui non sono educati sufficientemente nei conservatori ed è fondamentale che invece lo strumento diventi parte del loro corpo, quindi l'ascolto, il loro ascolto corporeo deve prolungarsi anche proprio nello strumento, che deve diventa un prolungamento del corpo e il corpo una cassa di risonanza dello strumento. Volevo accennare, siccome ha parlato di ernia, ed è uno degli argomenti importanti con cui i pazienti vengono, il fatto che ci sia un'ernia o non ci sia, in fondo è relativamente importante, nel senso che i dischi sono degli ammortizzatori posti fra le vertebre e sono di materiale gelatinoso e fibroelastico, quindi quando c'è un eccesso di contrazione della muscolatura della schiena, i dischi soffrono perché sono degli ammortizzatori che sono troppo sollecitati, fino anche ad avere delle protrusioni o a delle ernie. In ogni caso sono sintomo di contrattura muscolare e non sempre l'ernia è un sintomo che c'è stata una grossa contrattura, non è detto che sia l'ernia a dare il dolore, anzi dice solamente che c'è stata una grossa contrazione e una contrattura anche prolungata nel tempo. E quindi la terapia, che ci sia l'ernia o non ci sia l'ernia, è fondamentale, è sempre muscolare. Bisogna agire sui muscoli in modo di detendere la muscolatura e ricreare lo spazio fra le vertebre, a meno che ci sia una compressione acutissima, paralizzante del nervo, e quella è l'ernia paralizzante, che è un'altra cosa. È un'altra cosa. Dottoressa, mi stanno arrivando dei messaggi curiosi, perché ad esempio Gisella mi scrive: ma non potete per cortesia, la dottoressa Bertelè può parlare della colite? Un altro ascoltatore mi dice del mal di testa, un altro dell'intestino pigro. Insomma, noi abbiamo dato un messaggio, sicuramente agendo sulla postura, eliminando delle tensioni, dei blocchi, si può, no? Andare a risolvere o a migliorare una condizione che magari non pensavamo legata. La inviteremo nuovamente, la dottoressa Bertelè, vedremo, cercheremo di così sottolineare tutte le relazioni possibili, ma ne abbiamo già parlato un po', tra la nostra postura, i nostri blocchi e il benessere generale. Ma io ho Alessandra che ci chiama da Roma. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Eccoci. Sì, grazie per avermi chiamato, a lei e anche alla dottoressa Bertelè. Va bene, noi siamo contente, ci racconti. Allora, intanto premetto che io ascolto pochissimo i sintomi del mio corpo. Spesso mi è capitato di accorgermi di avere una malattia o qualcosa quando questa era già avanzata, o addirittura di accorgermi da analisi fatte dopo. Sì. Di accorgermene. Premetto anche che effettivamente io la cosa che ha descritto la dottoressa, cioè l'essere curvi, io ho una cifosi perché si sente il peso di tutto il mondo sulle spalle, questo io l'ho invece molto chiaro, ma non chiamo per questo, chiamo per un fatto particolare. Io da sempre, se ho un problema, ce l'ho nel lato sinistro del mio corpo. Ho un occhio miope a sinistra, ho avuto l'asportazione di un nodulo al seno a sinistra, ho avuto i calcoli renali nel rene sinistro. Quindi tutto è come se il suo corpo fosse diviso in due. Il mio corpo è completamente diviso. E la mia testa, adesso ho il tunnel carpale al pollice sinistro, la mia testa invece questa divisione non ce l'ha, nel senso che io scrivo da destra a sinistra e da sinistra verso destra con tutte e due le mani, anche contemporaneamente, e non sono mai riuscita bene a distinguere destra e sinistra, nel senso che magari voglio mettere la freccia in macchina. Ah, questo anch'io devo sempre fare, io sono mancina e tutte le volte devo fare una piccola riflessione, devo fermarmi. E quindi siamo un po' pericolose in macchina. Ma Alessandra, volevo chiedere alla dottoressa Bertelè, Alessandra ci descrive proprio un corpo tagliato a metà. Sì, è interessante, perché anch'io sono mancina corretta, e quindi capisco molto il discorso della dominanza. Però ecco, a proposito di questo, è fondamentale sapere, e si ricollega al fatto del corpo, che il cervello sinistro è collegato con l'emisoma, cioè con l'emicorpo destro, e viceversa. Sì, sono incrociati. La parte destra del cervello con la parte sinistra del corpo. Ecco, la parte sinistra del corpo, che quindi è collegato con l'encefalo destro, è quella che ci parla soprattutto della nostra affettività, del nostro vivere delle emozioni profonde. Infatti direi che appunto non è a caso che la signorina ha detto: non ascolto il mio corpo. È proprio un richiamo all'ascoltare invece il corpo, un richiamo profondo all'ascoltare le emozioni, a non sottovalutare nulla. Tanto più in una persona che, essendo mancina, usa la parte destra del cervello anche per l'aspetto più razionale. Bisogna che integri progressivamente veramente le due parti. Per me è stato un cammino straordinario di conoscenza integrare motoriamente la parte destra, sì, e quindi fare un'integrazione anche del cervello sinistro. Ecco, proprio per mettere al passo, allo stesso passo, le due parti. E a proposito di passo, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme con uno studio molto interessante. In linea abbiamo proprio uno dei primi autori da Londra, tra poco. Essere e benessere. Ed è uscita proprio in questi giorni una notizia scientifica che sembra presa dal titolo del libro della dottoressa Bertelé, Ascolta e guarisci il tuo corpo, un po' modificato, ma insomma andiamo a sentirla insieme. Di 18 volontari sono state studiate le reazioni al dolore scatenato dal contatto fra un oggetto caldo e la pelle della loro mano sinistra. Gradatamente, la temperatura della sonda termica posta sulla mano dei partecipanti al test veniva aumentata e i partecipanti all'esperimento dovevano premere un pedale non appena iniziavano a sentire dolore. Si è così visto che se le persone riuscivano a vedere la loro mano attraverso uno specchio, la percezione del dolore era minore e il livello di sopportazione del calore di 3 gradi superiore rispetto invece a quando la visione veniva oscurata da un blocco di legno e non si vedeva quindi la mano. L'immagine che il cervello mostra del nostro corpo ha una forte correlazione sul livello del dolore. Conclusione dello studio: avete paura del dolore? Basta guardare il vostro corpo e la sensazione dolorosa diminuisce. Quindi ascoltiamo il corpo, ma anche guardiamolo. Parliamo di questa ricerca che è stata pubblicata sulla rivista Psychological Science. In linea con noi abbiamo l'autrice di questo studio da Londra, la dottoressa Flavia Mancini, psicologa. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, ci aiuti a capire per bene le implicazioni che derivano dai risultati del vostro studio? Allora, tutti sappiamo che il dolore è fortemente dipendente dal contesto in cui il dolore avviene. Noi sì. abbiamo investigato un particolare tipo di contesto, semplicemente percettivo, ovvero ciò che guardiamo mentre sentiamo dolore. E abbiamo visto che la visione del nostro corpo è analgesico, perché riduce il dolore. Questo può indicare che c'è un'interazione tra parti del cervello che elaborano la vista, e in particolare la vista del nostro corpo, e parti del cervello che elaborano il dolore. E diciamo l'integrazione tra informazioni provenienti da una parte e dall'altra, che è così chiamata integrazione multisensoriale, probabilmente alla base di questo effetto. Ma dottoressa Mancini, quando lei sente un dolorino, che cosa fa concretamente? Già che queste cose lei le studia e fa ricerca. Beh, ovviamente ormai non posso fare altro che guardare il mio corpo, però a parte ciò rifletto molto sulle sensazioni che provo e come queste sono modulate, sono molto analitica. Quindi si ascolta e si guarda. Grazie alla dottoressa Mancini, complimenti, buona giornata. Grazie, arrivederci. Dottoressa Bertelé, possiamo aggiungere quindi a ragion veduta anche l'occhio? Lo sguardo? Certo. Sicuramente per noi poi che siamo mesieristi, l'occhio diventa fondamentale. Mesier ci diceva: dovete affinare l'occhio per vedere appunto le disarmonie, i nodi, come un liutaio deve assolutamente affinare l'orecchio. Ecco, quindi l'occhio diventa essenziale. Poi a volte però è importante anche chiudere gli occhi e ascoltarsi dal di dentro, perché tutto l'aspetto propriocettivo, cioè l'ascolto del corpo proprio, diventa potenziato senza l'apporto visivo, quindi serve l'occhio in alcuni momenti, in altri momenti è importante anche concentrarsi su di sé, dal di dentro. Dottoressa Bertelè, io devo già invitarla per un'altra puntata perché i nostri ascoltatori, devo dire che sono stati molto così coinvolti dai suoi messaggi, ha generato molta curiosità, attese, richieste, per cui io la rinvito per un'altra puntata tutta con Laura Bertelè. Intanto la ringrazio per essere stata con noi. Stanno arrivando molti messaggi dei nostri ascoltatori che ci raccontano come riescono a sentire il corpo, la scelta difficile. Come sempre vi invito poi ad andare sulla pagina di Essere Benessere, perché oggi pomeriggio metteremo il messaggio che più ci ha colpito, lo selezioneremo dalla redazione. Dottoressa Bertelè, grazie. Grazie a voi. E allora, noi abbiamo imparato un po' ad ascoltare i segnali del nostro corpo, almeno proviamoci, poi faremo un'altra puntata. Non so se voi avete ascoltato il Festival di Sanremo, per noi l'ha fatto il dottor Francesco Aquilar, che è in linea con noi, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'abbiamo ascoltato perché la sfida, l'invito di Essere Benessere è proprio grazie all'aiuto del dottor Aquilar di cercare tra i brani che vengono presentati nelle serate del festival, di cercare quello che più ci aiuta, no? A stare bene, ad attivare un'emozione, a farci raccontare quello che non riusciamo, a darci un'idea. Dottor Aquilar, su quale brano ci concentriamo? Che cosa ha scelto per noi? Io ho scelto oggi il brano che secondo me è il più antidepressivo di tutti. Evviva! Che è quello di Max Pezzali, che si chiama Il mio secondo tempo. Perché c'è anche come ritmo musicale scelto, come sequenza di accordi, come incisi, c'è l'idea che tutti possiamo avere a disposizione un secondo tempo per correggere quello che è andato male nel primo tempo e per godercelo fino alla fine. Da questo punto di vista c'è una prospettiva sul futuro che è appunto notoriamente antidepressiva, e c'è un entusiasmo che non trascura però gli eventuali errori del passato, ma non ne fa una tragedia. Oh, questo ci piace, ce ne sentiamo un pezzettino ricaricante. Dottor Aquilar, e poi c'è anche un terzo tempo, volendo. E come no, c'è sempre un nuovo secondo tempo da magnifico, fare. Magnifico, questo mi piace. Senti, in effetti anche io l'ho ascoltato, ho detto, vedrai che il dottor Aquilar sceglie questa qua. Ma noi abbiamo un minutino e io non posso evitare di commentare con lei Luca e Paolo, lo sfottò. E come no, quella è probabilmente la canzone che sarà rimasta più spesso nella memoria delle persone, anche perché si basava su una musica di Morandi che tutti già conoscevamo. Certo. È stata la forza dell'ironia, la forza dello spirito che va a vedere la negoziazione un po' narcisista che ha riguardato un po' tutti gli italiani nella politica degli ultimi tempi. Quindi io vedevo stamattina le mie figlie che se la risentivano, stamattina facendo colazione, per cui l'ho rivista, devo dire che mi è piaciuta molto. Io invito i nostri amici da casa se ascoltano il Festival di Sanremo, l'importante è che ascoltino Radio 24, ma se ascoltano il Festival di Sanremo a scriverci la loro canzone, quale hanno scelta, la commenteremo per tutta la settimana col dottor Aquilar, che domani torna perché parleremo con lui di timidezza. E a proposito, il palco di Sanremo, il palco dell'Ariston, insomma, è un bel banco di prova. Quindi ci troviamo di nuovo qui, dottor Aquilar, domani alle 11. Come no, molto volentieri. Buona giornata e buon ascolto. Grazie, arrivederci a tutti. A domani. Essere e benessere.